25 anni dalla presa di potere della Lady di Ferro. Inghilterra, inverno 78-79, cumuli di immondizia straripano per strada, elettricità razionata 3 giorni a settimana, settimana lavorativa ridotta, Inghilterra costretta a chiedere credito all'International Monetary Fund. Giugno 79, Margaret Thatcher, classe 1925, vince le elezioni e forte di una maggioranza assoluta dichiara ecumenica. Dove regna discordia mi si lasci portare armonia, dove regna disperazione mi si lasci portare speranza. Ma tra 79 e 82 il prodotto interno lordo inglese crolla dell'11%. Il primo mandato della prima donna a capo di un governo europeo è una catastrofe. Fine del welfare, fine della politica di congiuntura, delle entrate, degli stipendi, fine definitiva ed ultima del tradizionale politica laburista. Cambio di paradigma, economia di mercato ispirata all'americano Milton Friedman. La conseguente lotta con i sindacati conferisce a Margaret Thatcher il soprannome di Lady di Ferro, culminando nella simbolica sconfitta del 1984, con lo sciopero dei minatori e dei lavoratori portuali che sono costretti dopo mesi a riprendere il lavoro senza aver ottenuto nulla. Questo modo di fare politica diventa il thatcherismo. La svolta però era avvenuta il 2 aprile del 1982, quando un distaccamento militare argentino atterra sulle isole Falkland. Il generale Galtieri diventa il Saddam della Thatcher e questo fatto non è scontato. Molti, anche in Inghilterra, erano piuttosto stupiti di scoprire queste stantie briciole d'impero, tale Blair Tony, avvocato ed aspirante politico, ritenne che fosse opportuno trattare civilmente piuttosto che guerreggiare. 20 anni dopo cambierà opinione. L'Inghilterra in 2 mesi spazza via le forze argentine, Margaret Thatcher si attribuisce ogni successo. Arrivano successi, l'inflazione scende al valore record del 4% e il debito pubblico si fa di molto ridimensionato. Le privatizzazioni e la tassazione sull'estrazione petrolifera del Mare del Nord producono utili che permettono di ridurre sensibilmente gli apici fiscali. La disoccupazione però ancora nel 1987 è di oltre il 10%. A partire dal terzo mandato l'inflazione ricomincia a galoppare, la riforma della scuola e della salute peggiorano le cose, per la prima volta si inizia a subire il contraccolpo del thatcherismo. Priva di strumenti sociali, un'Inghilterra tenuta fuori dalla solidarietà europea si trova a dover gestire la propria inadeguatezza rispetto all'imminente esplosione del mercato mondiale tecnologico. Quando cade il muro di Berlino e si inizia a delineare la nuova Europa è chiaro, l'Inghilterra è in ritardo su tutto, ma soprattutto sulla capacità di reazione e sacrificio degli inglesi, che hanno compiuto 20 anni prima e senza raggiungere nessun risultato quelle riforme che oggi, al riparo dell'Europa, gli altri paesi membri con molta parsimonia si accingono ad affrontare. Per Amisnet, Tito Gandini, reporter associati.